Tempo di Sport di Gigi Garanzini. 5 giorni all'inaugurazione dei campionati europei, 7 dal debutto dell'Italia contro la Spagna. 7 giorni e poco meno di un'ora, visto che Italia-Spagna, partita inaugurale del girone degli azzurri, è in programma esattamente la prossima domenica alle ore 18. Noi però in questo cammino che ripercorre tutto quello compiuto dalla nazionale italiana negli europei, dalle origini a oggi, partiamo invece dalla stagione più felice, direttamente dal 1968, quello dell'unica vittoria azzurra con Ferruccio Valcareggi commissario tecnico. Questa telecronaca è storica perché la voce è di Nando Martellini. Ed ecco la fine della gara, 0-0, non ci sono stati né vinti né vincitori. Per il passaggio alla finale deciderà il sorteggio che verrà fatto negli spogliatoi tra poco. Il sorteggio negli spogliatoi tra poco, e sarà un sorteggio particolarmente fortunato perché quella monetina premierà l'allora capitano azzurro Giacinto Facchetti. Il commento a questo sorteggio da parte di un altro interista e azzurro di allora, Sandro Mazzola. Noi avevamo il capitano, no, Facchetti, che era fortunato. Cioè quando c'erano le lotterie, quando facevamo qualcosa di particolare, lui diceva sempre. E quindi noi, oddio, sì, un po' di timore c'era, però una certa tranquillità sulla fortuna del capitano ce l'avevamo. Ricordo solo il fatto quando è rientrato che ha detto abbiamo vinto, ma l'importante cioè era che finalmente la nazionale italiana dopo 30 anni si giocava una finale importante, insomma. Era stata dura arrivare fin lì. E fu proprio da quella nazionale di Valcareggi che l'Italia finalmente tornò a decollare dopo i disastri del dopoguerra. Sapete la storia, 2 titoli mondiali nel 34 e nel 38, poi appunto un disastro assoluto, fino a che nel 68 non arrivò quella vittoria con Ferruccio Valcareggi alla guida. Ma come poi sarebbe accaduto forse in maniera più clamorosa ancora nel 70 in Messico, non mancavano certamente le polemiche in quell'epoca nella squadra nazionale italiana per via dei tanti dualismi. Adesso torna al microfono Mazzola per un episodio che insomma segnò profondamente quell'avventura, perché Mazzola, in altre parole, era stato escluso dalla finale e a un certo punto ha detto me ne vado. Sentiamo questa testimonianza. Ogni partita ha una storia a sé, ogni partita purtroppo ha anche una polemica a sé. E stamane al centro della polemica si è svegliato Mazzola. Ne vado Mazzola, in quanto Mazzola sapete stasera non giocherà, e qualche giornale ha scritto che lui era deciso addirittura per polemica a lasciare il centro di Fiuggi ed andarsene. Purtroppo sono del segno dello scorpione, un carattere un po' particolare, mi arrabbiai molto, dissi ma tanto me lo viene a dire l'allenatore questo. Infatti poi venne Valcareggi, allora io feci le valigie per andare a casa e arrivarono Burnic e Ferrini, che era il capitano del Torino, e mi chiusero proprio a chiave per non farmi fare stupidaggini. Logicamente mi è dispiaciuto. Comunque ritengo che sia giusta questa decisione che è stata presa. E quindi rimasi a vedere la finale facendo il tifo. È una cosa sincera, che quello che ho detto io lo sento veramente. Beh, direi deliziosa questa sfasatura tra i due Audi, no? Perché uno è un audio di una ricostruzione postuma e l'altra era la voce originale di Mazzola di quel giorno, in cui per l'appunto alla fine Ferrini e Burnic lo convinsero a superare questa delusione. Io mi sto molto divertendo ad ascoltare questo come eravamo, no? Che poi in fondo come eravamo ci aiuta a capire che non è che il calcio di allora, il calcio di quei tempi fosse una cosa idilliaca come oggi si tende a raccontare. Anzi, come forse avrete capito, le polemiche erano anche più feroci di quelle di oggi, o forse erano meno sopite, forse funzionavano meno le marcature fuori dal campo, no? Rispetto a quanto non funzionino oggi. Di sicuro si arriva a questa finale, che è la prima finale del dopoguerra vinta dall'Italia, e questa è una telecronaca che credo parta dalla vigilia. Sentiamo. Signori all'ascolto, buonasera. Lo Stadio Olimpico di Roma ancora in festa per la finale definitiva del campionato d'Europa. L'Italia si presenta a questa finale bis contro la Jugoslavia con un nuovo volto. 5 uomini nuovi rispetto a sabato scorso, 7 rispetto alla semifinale di Napoli. ma la squadra azzurra si presenta soprattutto con idee più chiare e con un nuovo atteggiamento psicologico. Scende in campo con più umiltà, consapevole di una chiara superiorità tecnica nelle mani dei nostri avversari, superiorità da annullare con una maggiore determinazione, una valida esperienza, un più alto agonismo. In difesa è stato recuperato Burnic e Valcareggi non ha ritenuto opportuno rinunciare al valido terzino, specialmente nella sera in cui è stato obbligato a cambiare un'altra pedina della retroguardia, Salvadore al posto di Castano. Al centrocampo sono schierati Rosato, De Sisti con l'altro recuperato Domenghini, il giocatore che è stato senza dubbio il migliore della nostra rappresentativa nei due incontri che hanno preceduto questa seconda finale. In attacco ci sono tre punte fisse, Riva, Mazzola, Anastasi, quindi la squadra avrà una maggiore propensione offensiva. Il pubblico è di circa 65.000 spettatori. Una serata abbastanza fresca, ha piovuto a Roma nel pomeriggio, il terreno in perfette condizioni. Da questa partita uscirà senza dubbio il campione d'Europa. Infatti sono previsti due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno in caso di pareggio, ma poi il ricorso al sorteggio. In tribuna d'onore notiamo nell'ordine in cui sono seduti l'ambasciatore jugoslavo Prissa, l'ambasciatore dell'Unione Sovietica a Roma, l'onorevole Andreotti, Corona, Zelioli, Lanzini, Gaspari, Sarti, le autorità del comune e della provincia di Roma, il presidente della Federazione Italiana Franchi, il presidente della Lega Stacchi, il presidente dell'UEFA Wiederkehr, che premierà la squadra vincitrice. Beh, avete sentito che intanto un personaggio immortale c'era, no, in tribuna, tra tanti altri che purtroppo a 43 anni di distanza non ci possono più essere. La voce inequivocabilmente non poteva essere che quella di Nando Martellini, che adesso riprende la linea idealmente per raccontare invece l'andamento di quella partita. Secondo corner in favore degli azzurri. Facchetti, Domenghini, allontanato il tiro di Domenghini, raccolto da Rosato. Domenghini ancora, tiro di Domenghini, Riva, rete! Rete di Riva al 13° minuto del primo tempo. Il tiro era stato di Domenghini, Riva lo ha fermato e a sua volta ha messo in rete sulla sinistra del portiere. Ha segnato Riva al 13° minuto del primo tempo. Italia 1, Jugoslavia 0. Mazzola, De Sisti, Domenghini, De Sisti, Anastasi, rete splendida, rete di Anastasi, meravigliosa. Un passaggio di De Sisti, Anastasi ha raddoppiato. Fantastico, il tiro al volo di Anastasi, 32° del primo tempo, Italia 2, Jugoslavia 0, ha raddoppiato Anastasi. Guardate il tiro al volo di Anastasi, splendido, imprendibile. Colpo di testa di Burnic, non riesce, palla Brazic, 15 secondi, cross di Dzacic, S. Zoff, para e c'è il fischio dell'arbitro Ordiz de Mendeville. Signori all'ascolto, qualunque cosa io ora dicessi stonerebbe di fronte allo spettacolo che sta svolgendosi all'Olimpico, spettacolo che ci porta alla commozione, perché dopo 30 anni la nazionale italiana raggiunge un titolo internazionale, 30 anni che sono state spesso di delusione, dall'altra di amarezza, ma che in ogni caso possono essere ora bene accettati per la gioia che ci procurano in questo momento. Italia batte Jugoslavia 2-0, Italia è campione d'Europa, ha vinto la nazionale azzurra la terza edizione della Coppa d'Europa per Nazioni. Ripartiamo dall'edizione 1980 che si disputò in Italia, come qualcuno ricorderà, e che non ebbe un esito felicissimo, ma Di non felicissimo ebbe anche la vigilia, segnata, pensate un po', da uno scandalo scommesse. Era il 1980, il commissario tecnico era Berzot, sono passati 32 anni e è cambiato il commissario tecnico, purtroppo Berzot non c'è più, ma insomma, la vigilia sofferta degli azzurri non è stata molto diversa da quella di allora. Quello del calcio scommesse, intendiamoci, era salita tutta la categoria, sembrava che tutta la categoria fosse disonesta. Noi abbiamo perso un europeo con il pubblico contro, se lei ricorda, che giocavamo in trasferta, non so, in un altro continente, col pubblico che fischiava, e ci hanno messo in condizioni terribili. In un altro continente, riserve, se non la... Io che ho raccolto per tanti anni le sue testimonianze, ufficiali e ufficiose, e tanti racconti, questo era davvero un rospo che non aveva mai mandato giù, quello europeo che giocandosi in casa avrebbe dovuto finire in un'altra maniera, che tra l'altro fu la cui eliminazione, parlo dell'Italia, fu poi decisa anche da un torto arbitrale a cui arriveremo tra poco. Prima il momento di illusione, l'Italia aveva debuttato con uno 0-0 abbastanza tristino a Milano contro la Spagna, ma insomma comunque un risultato non così negativo, ma la seconda partita a Torino era riuscita invece a vincere battendo l'Inghilterra con un gol di Tardelli. Sentiamo il racconto di Gentile su quel gol. Abbiamo fatto anche delle belle partite, perché mi ricordo contro l'Inghilterra fu una partita combattuta, la vincemmo 1-0 se non sbaglio. Antonioni salta molto bene Coppel, apre su Graziani, resiste alla carica di Niel, Graziani, traversone, gol, gol di Tardelli, splendido gol, Tardelli. Sì, quando poi la palla la mettevi dentro, insomma, quello che diceva Berzot prima era relativo, no? Perché mi sembra che il comunale di Torino non avesse risposto poi così male a questa entusiasmo, a questa prodezza combinata Graziani e Tardelli. Il problema erano i tempi morti, cioè erano... Era l'ostilità, l'indifferenza che c'era fuori dal campo, che c'era al di là dei momenti agonistici. Fatto sta ed è che in quell'atmosfera, certamente non facile, maturò anche un torto arbitrale molto serio, che fece discretamente epoca, perché nella semifinale con il Belgio, giocata in casa all'Olimpico di Roma, fu negato all'Italia un rigore davvero, davvero clamoroso. Riascoltiamo quell'episodio. Bettega, Graziani, fallo di mano, forse dentro. È volontario, secondo me è dentro. Mi ricordo proprio la partita col Belgio, la semifinale, che era... siamo stati nettamente superiori, l'arbitro non ci dette un rigore clamoroso. Se ci danno quel rigore lì, vinciamo la partita, andiamo in finale. Le voci erano di Gentile e di Causio, con quella storica, ripeto, di Nanno Martellini, a fare quel fallo di mano volontario entro l'area fu un certo Mervs, che era uno dei giganti della difesa belga. Oggi sarebbe stato rigore ed espulsione, senza dubbio alcuno, e invece allora l'arbitro fece finta di nulla, e l'Italia perse quella partita e fu eliminata. Questa era l'edizione infausta del 1980. Saltiamo all'88, dove gli europei si giocano in Germania e l'Italia è guidata da Azeglio Vicini, che ha varato una nazionale giovane, fresca, nata nell'86 sulle macerie della nazionale di Berzot, che si era ormai sfaldata in Messico per raggiunti i limiti di età, no? Nei suoi uomini più rappresentativi. Il debutto di quell'europeo, raccontato da un'altra voce, perché nel frattempo era subentrato Bruno Pizzul, raccontato in questa partita contro la Germania. Di prima, poi Donadoni che ruba il pallone, lo dà Mancini, tira e gol di Mancini. Sono stati molto bravi anche a fare presto, hanno costretto i giocatori tedeschi a cercare il difficile. Viene impietosamente punito dall'arbitro Hackett, sulla palla è Lidbarski, poco più indietro, Breme, Lidbarski e il tiro. 1-1, Breme. Lancio lungo. Fischia l'arbitro e sancisce l'1-1. Il momento migliore di Roberto Mancini in nazionale quel giorno sembrò davvero che il talento sampdoriano, che aveva allora, se non ricordo male, 24 anni, fosse ormai sbocciato, fosse maturato, e invece non fu sufficiente, per la vittoria del titolo, nonostante nella partita successiva il suo gemello sampdoriano, e cioè Gianluca Vialli, nonostante si fosse reso poi protagonista Vialli di una grande prodezza segnando il gol della vittoria, splendido, uno dei più bei gol che si ricordino nella storia della nazionale, proprio contro la Spagna. Non eravamo una squadra noiosa, eravamo molto imprevedibili, a volte sorprendevamo anche noi stessi, perché diciamo, ma come? Cosa siamo riusciti a fare? Siamo ancora 20 metri dall'area di rigore. Altobelli fa quello che si definisce un velo, cioè lascia passare la palla, ovviamente la voleva far passare per poi girarsi e andare a riprendere l'1-2. Poi arrivò il difensore da dietro, Sanchez, mi sembra che mi diede la solita botta, e forse la botta, la palla un po' spostata, questa mi rese più semplice girarmi e lasciarlo lì. Il portiere sta ancora caricando e nel momento in cui si prepara a partire poi la palla gli è già passata, quindi non era stata tanto la violenza quanto l'anticipo del tiro. Questo era il racconto di Gianluca Vialli di questa sua prodezza. Finisce lì il bello di questa avventura, perché poi arriva l'URSS e questa semifinale, su cui sinceramente ci si era illusi di poter andare oltre, questa semifinale invece si rivela un ostacolo troppo alto e gli avversari vincono sinceramente con pieno merito, un 2-0 che ricordo abbastanza secco e che adesso noi sentiamo ricostruito, mi pare, anche dalle voci di alcuni dei protagonisti, per esempio Roberto Mancini, per esempio Roberto Donadoni, per esempio Franco Baresi. Nel primo tempo loro ci hanno aggredito, forse hanno tenuto la palla più di noi, però le occasioni più pulite sicuramente le abbiamo avute noi, siamo stati sfortunati e nel secondo tempo loro sono venuti fuori alla grande. No, né la fine di un sogno né un incubo, è stata per noi una tappa di questo europeo al quale ci tenevamo così di proseguire. Purtroppo abbiamo trovato una squadra in grande giornata che ha dimostrato di essere superiore a noi. Ma non credo poi che ci sia questo enorme divario, noi pur così, giocando magari inferiormente a loro abbiamo creato 3-4 occasioni molto buone per fare gol. Chiaro che se si riusciva a sbloccare magari poteva cambiare la situazione, però questi sono sempre i soliti discorsi del senno di poi. No, forse il ridimensionamento no, però ha dimostrato che dobbiamo ancora migliorare e maturare, perché i sovietici ci hanno imparato che come si affrontano le partite con un'altra determinazione, con un'altra grinta, ecco, perché contro di noi hanno dimostrato di essere una grande squadra, un grande collettivo. E noi siamo un po' mancati forse in questa ultima partita, ecco. Sembrò dopo quel secondo tempo veramente di alto livello della Russia, dell'URSS, chiedo scusa, perché allora il muro c'era ancora, e come, il blocco granitico pure, sembrò che fossero loro i favoriti per la finale europea, cui si era qualificata anche l'Olanda, nonostante tutto il rispetto e il timore che incutevano quei 3-4 campioni che l'Olanda poteva vantare tra le sue file. Beh, insomma, uno di quei campioni in particolare, e cioè il cigno di Utrecht, Van Basten, invece in finale centrò una delle prodezze più indimenticabili, credo, della storia del calcio in assoluto, non del calcio degli europei, proprio della storia del pallone. E mi pare che sia Bruno Pizzul in questo caso con Van Basten a ricostruire, no, sia Bruno Pizzul, non in telecronaca, a ricostruire questa prodezza che tolse il fiato letteralmente, tanta era l'imprevedibilità e la bellezza. Van Tingelen, Muren di prima, attenzione, Van Basten si coordina e lascia partire uno stupendo tiro che batte da Sayer. Grandissimo gol di Marco Van Basten. Dopo la pausa pubblicitaria faremo un salto di 8 anni per arrivare alla voce di Riccardo Cucchi e alla sua radiocronaca che decretò l'eliminazione dell'Italia dall'edizione degli europei 1996 in Inghilterra sotto la gestione di Arrigo Sacchi. Calcio di rigore decretato da Goethe, errore di Summer, errore di Summer, un rimpallo ha favorito la fuga da parte di Casiraghi. Casiraghi è entrato in area praticamente solo, Köpke gli si è fatto incontro, Casiraghi lo ha aggirato, Casiraghi ha aggirato il portiere tedesco che è uscito a valanga sul giocatore azzurro, nettamente superato, ha alzato la gamba sinistra, ha messo a terra Casiraghi, potrebbero esserci gli estremi per l'espulsione del portiere tedesco. Comunque calcio di rigore decretato dal signor Goethals in favore dell'Italia, vediamo cosa deciderà il direttore di gara. In realtà non c'è l'espulsione da parte del portiere tedesco, okay. Esola parte dai 16 metri, la sua rincorsa è lunga, il tocco con il destro e palla parata in due tempi purtroppo da Köpke. Köpke riesce a risolvere la situazione in favore della Germania e para il calcio di rigore battuto in modo angolato ma decisamente troppo debole da Zola. Nulla da fare, ancora 0-0. La radiocronaca era di Riccardo Cucchi. Quella partita, ripeto, segnò l'eliminazione dell'Italia da questa avventura del 96 dall'Europeo e poco dopo ci fu questa spiegazione ufficiale di Arrigo Sacchi sul fallimento della spedizione, di cui riascoltiamo a distanza di tanti anni un frammento. Non sono contento di allenare una squadra così, di allenare questi giocatori anche nella sconfitta. Credo che quel rigore ci abbia tolto uno dei nostri giocatori più importanti. Io non voglio fare polemiche perché non ne ho neanche, ma quando abbiamo fatto un mondiale dove abbiamo ottenuto un risultato secondo me straordinario, fui criticato perché non giocavamo bene, dicevano, e stavolta abbiamo giocato bene. Non credo che nessuno possa dire che questa squadra ha giocato male. Chi lo dice secondo me non è, vede il calcio molto diverso da quanto lo vedo io e anche la maggior parte delle persone. Vabbè, certo che la lingua tornava sempre a battere, no? su quel dente dolente della finale persa senza giocarla in realtà a Pasadena contro il Brasile e poi in realtà sancita dai calci di rigore sbagliati in quell'occasione. Su Euro 96, ripeto, l'Italia aveva puntato forte e uno degli uomini di cui si è perso un tantino il ricordo poi, ma che allora era veramente un attaccante in un grande momento, era Enrico Chiesa, che riassume questa avventura finita male. È stata un'esperienza eccezionale, io penso che gli europei, come fatto poi i mondiali nel 98, sono due cose diverse, però anche gli europei sono stati emozionanti, era la prima volta. Peccato perché forse era una delle squadre più forti eravamo, peccato perché siamo usciti in un modo un po' strano. Prima abbiamo vinto 2-1 con la Russia e la seconda è stata quella che poi penalizzato perché abbiamo perso in casa e abbiamo perso con la Repubblica Ceca 2-1, è stato il mio primo gol in nazionale, ho fatto l'1-1 che è stata un'azione bella, impostata qua, dalla difesa siamo arrivati fino in porta. Beh, è stato un gol straordinario ma soprattutto una grande emozione, era il primo gol. Peccato che poi alla fine partita non è andata come doveva andare. E da lì peccato perché poi con la Germania il rigore di Zola, in 11 contro 10 non ce l'abbiamo fatta. Peccato perché per me come squadra, come rosa, eravamo una delle più forti. Finì grosso modo lì, tra lì e il mondiale poi del 98, l'avventura di quella generazione, o di buona parte di quella generazione azzurra, e nel 2000 per l'europeo di Belgio e Olanda si voltò pagina. Tanto si cambiò commissario tecnico, che divenne Dino Zoff, i leader della nazionale, insomma, grosso modo diventarono Totti e Maldini, che erano i due giocatori più rappresentativi nei rispettivi settori di pertinenza. Si arrivò a questa semifinale con l'Olanda, una delle partite più emozionanti, credo, della storia del calcio azzurro, in cui non si sa come, o meglio si sa con i miracoli pazzeschi di Toldo su azione, su rigore, dappertutto, si arrivò all'ultimo calcio di rigore, segnato da Totti, come soltanto 24 anni prima ha osato Panenka, uno sconosciuto giocatore ceco, in un'altra finale tra l'altro di un campionato d'Europa contro la Germania. Sentite la descrizione di Pizzul di questo calcio di rigore di Totti. Segna anche Totti. Non ci credo. Totti ha rischiato l'impossibile, ha beffato Walter Sarr. Totti ha rischiato l'impossibile, no? Dice un Pizzul stravolto, no? da questa prodezza, ma anche da questa follia. Ben diverso, no? il racconto dei testimoni, dei compagni di squadra, perché qui Nesta, altre volte Maldini e altri compagni raccontano di come Totti partì da metà campo e annunciò loro la sua folle intenzione andando verso l'area di rigore. Sentite Nesta. Mentre andava per calciare il rigore, si è girato e ci ha detto: faccio cucchiare. Noi abbiamo detto: speriamo di no, speriamo che tira forte, che sia un gran tiro. Però sai, lui scherza molto, pensavamo scherzasse. Totti ha rischiato l'impossibile, ha beffato Walter Sarr. Gli è andata bene, anche se lo sbagliava poi nello spogliatoio, rincorrere, entrare dentro lo spogliatoio e vedere la partita. Però è stato un grande, un folle, di tutto. Beh, insomma, d'altra parte i giocatori di talento, di genio hanno di questi momenti. Sembrò i miracoli di Toldo da una parte, lo spirito di sacrificio di tutti, e dall'altra questo colpo di follia vincente di Totti, sembrarono tutti ingredienti che avrebbero portato alla vittoria. In finale ci aspettava la Francia che era campione del mondo uscente, avendo vinto in casa il titolo in finale contro il Brasile dopo aver eliminato l'Italia 2 anni prima, e invece la Francia in finale si fece uno scherzo di quelli davvero atroci, perché dopo il gol iniziale di Del Vecchio, su cui l'Italia aveva campato giocando bene, certo, magari non cercando a sufficienza il raddoppio, ma soprattutto fallendolo in 2 occasioni clamorose sbagliate da Del Piero nel finale. Beh, insomma, quando veramente mancava una manciata di secondi alla fine, e poi si sono dette tante cose, bastava che uno difendesse la palla sulla bandierina al calcio d'angolo, bastava che qualcun altro, bastava, invece arrivò il pareggio praticamente a tempo scaduto, non solo, ma in quell'edizione era ancora in vigore il golden goal, e quindi nei supplementari la prima delle due squadre che avesse segnato avrebbe vinto, concludendola all'istante la partita. E un'Italia moralmente a pezzi per aver fatto la fine di Dorando Pietri sul traguardo, contro una Francia galvanizzata da quel miracolo finale, non poteva che finire in un modo, e infatti si concluse con l'Eurogol, anzi con il Golden Goal di Trezeguet, che l'anno dopo sarebbe arrivato alla Juventus. Seguirono polemiche di ogni genere, anche di pessimo gusto. Fatto sta ed è che nel giro di 2 giorni il commissario tecnico Zoff decise che poteva bastare, e che il suo tempo alla guida della nazionale italiana era finito. A distanza di tempo Dino Zoff raccontò il perché di quelle dimissioni. Ho sentito un po' esagerato queste espressioni che sono state adoperate, ma non certamente per sul gioco, perché io non sono un integralista, quindi se uno di voi dice ma doveva far giocare Tizio, marcare Caio, non mi offendo certamente, ma ci sono state delle offese all'uomo, l'indegnità eccetera, quindi poi dopo la mia casa madre, dov'ero, non ho sentito questa difesa sull'argomento, e quindi ho capito l'andato e Aveva capito l'andazzo il vecchio Dino. 2000-2004, arriviamo a quest'altra edizione, c'è Trapattoni, commissario tecnico, che così introduce la vigilia di questo europeo. Sarà la nostra convinzione voler vincere che ci farà appunto, sarà un ottimo viatico. Beh, di certezze no, sottolineavo che un filosofo, un grande filosofo, dice che di certezze nella vita ce ne sono 3, si nasce, si muore e si cambia. Voler vincere, questo è il tipo di gara che sicuramente ci fa vincere, ma è ottimismo, quindi quando c'è ottimismo la percentuale è superiore al pessimismo. Dialetticamente era già ben lanciato il vecchio Trap. Va bene, fu un europeo, insomma, triste anche per dei brutti polemiche, gesti. Il gesto peggiore certamente fu quello dello sputo di Totti a Poulsen, immortalato dalle telecamere. La Federcalcio mobilitò immediatamente un luminare del foro come l'avvocato Giulia Bongiorno, che si scaraventò lassù, fin lassù, e provò a difendere Totti, riuscendoci entro certi limiti, diciamo. Sentiamo. Totti ha voluto iniziare stamattina il suo intervento chiedendo scusa pubblicamente per quanto accaduto. Ha detto di essere molto addolorato per due ragioni, non solo per il rischio delle eventuali sanzioni, ma sostanzialmente per una ragione. Ha detto: io, Francesco Totti, non mi riconosco in quel Francesco che avete visto nel video. Francesco Totti non è la persona che viene rappresentata in questi giorni come l'amo o come uno che picchia o che sputa. Francesco Totti è un'altra personalità, è una persona sensibile e che si è impegnata nel sociale. La richiesta da parte dell'accusa era di 4 giornate, sono state date 3 giornate a Totti, parzialmente quindi sono state accolte le nostre richieste. Nel senso che la pena era di 4 o più giornate, quindi sicuramente sono state riconosciute delle attenuanti. Beh, vabbè, insomma, qualche piccola attenuante generica, anche se in realtà ce n'erano pochine. Insomma, dopo il fattaccio Totti e tutte le polemiche che ne seguirono, con tanto di squalifica al giocatore, altro momento trash di quella edizione 2004, con l'intemerata di Bobo Vieri alla stampa sportiva al seguito. Io vi dico una cosa: voi potete parlare a livello tecnico, potete dire gioco bene, gioco male, sono in condizione, non sono in condizione. Mi è mai fregato niente della vostra opinione, perché io non vivo per voi, io vivo per me. Però una cosa è offendere l'uomo, offendere la persona, questo io non lo accetto, perché io sono più uomo io di tutti voi messi insieme. Come calciatore mi potete dire tutto, non mi interessa niente, fa parte del gioco, ma come uomo nessuno si deve permettere di dirmi niente, perché ripeto, sono più uomo io che tutti voi messi insieme. Io posso andare in giro a testa alta. Io la mattina mi posso guardare allo specchio. Vabbè, ne abbiamo sentiti di questi sfoghi, ne abbiamo sentiti tanti. Io ricordo che per la testa alta metteva la mano sotto il mento, la metteva uno che adesso è un pochino in crisi, no? Che forse ha avuto dei problemi. Comunque, europeo disgraziato, anche perché due nazionali teoricamente insospettabili dal punto di vista del fair play, cosa fecero? Fecero uno dei biscottoni più negati, ma più innegabili nello stesso tempo della storia. E tra i tanti che non la mandarono giù, riascoltiamo Buffon. Beh, hanno imparato, però ci hanno anche superato, secondo me, perché io sono sempre del parere che nel momento in cui una squadra è senza stimoli si può anche stare che faccia vincere un'altra, che non ci metta animosità. Sono anche del parere che se due squadre basta il pareggio possono anche non farsi male, ma riuscire a fare 2-2, da un pareggio a dire 2-2, passa molto, secondo me. Eh sì, credo che Buffon avesse ragione da vendere. Insomma, quell'edizione così tormentata e, diciamo, pure disgraziata per l'Italia, lo fu in realtà per tutte le favorite, perché alla fine, a sorpresa, ma anche un po' più che a sorpresa, vinse niente meno che la Grecia. E il racconto che ascoltiamo adesso è quello di un giocatore greco che militava allora in Italia al Perugia, che poi avrebbe giocato anche nella Roma, Dellas. Partita dopo partita l'abbiamo creduto tutti. Quando siamo arrivati qua, prima della partita, tutti eravamo molto tranquilli e ci crediamo per vincere questa partita. E la Grecia è una squadra, non una squadra che gioca un calcio di spettacolo, ma una squadra che prende risultati. Sicuramente ha portato una mentalità diversa che in Grecia non c'era. Poi ho trovato i giocatori giusti per fare una squadra fortissima. Edizione 2008, beh, qui i ricordi cominciano a essere più freschi e quindi è possibile ricostruire con la memoria un po' più pronta, per esempio, quella partita con la Romania in cui Buffon parò un rigore a Mutu, che qui racconta. Andiamo via con il rammarico di aver creato tantissimo e di aver raccolto poco, anzi addirittura per assurdo aver rischiato di perdere, però credo che abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo imposto il nostro gioco, abbiamo avuto tantissime occasioni, quindi questo sicuramente è una strada giusta e positiva, non è bastata per il risultato. Bisogna vedere alla fine il bicchiere mezzo pieno, no? Perché la cosa che uno si ricorda di più è il fatto che a 5 minuti alla fine rischiavi di essere fuori matematicamente, ecco. Per cui prendiamoci questa, così, questo piccolo bicchierino, questa piccola pillolina di ottimismo e speriamo che possa servire. La voce che ha preceduto, quella di Buffon, era insomma, riconoscibilissima, ma era comunque quella di Alessandro Del Piero. Adesso invece ascoltiamo Andrea Pirlo a commento della partita con la Francia. Sì, purtroppo ho preso una munizione che non ci voleva, però sono contento per il risultato della squadra, che vogliamo andare avanti a tutti i costi in questa competizione. Dobbiamo ringraziare anche l'Olanda, che sono stati veramente bravi. La partita era troppo importante oggi, quindi sapevamo che dovevamo giocare così con tutto quello che avevamo e siamo riusciti a farlo bene. Sì, perché loro erano partiti in contropiede, l'arbitro mi sa che non aveva visto un nostro giocatore in terra e non ha fermato il gioco, mentre nell'azione dopo, quando c'era in terra uno della Francia, ha fermato, quindi è stato un fallo non cattivo, però ci voleva. Con quella munizione, in una giornata molto positiva, al di là degli errori che Domenech cominciò a segnalarsi, no, come un CT indimenticabile per la Francia, beh, insomma, fu una partita nettamente positiva per l'Italia, ma con questa macchia, cioè con questa ammonizione per Pirlo che gli sarebbe costata e gli costò in effetti la partita poi con la Spagna. Partita a cui l'Italia si presentò da sfavorita e che invece riuscì a giocare alla pari e magari anche nel finale a meritare qualcosina di più, e invece poi segnata una delle tante volte che è accaduta nella storia del calcio italiano, segnata poi dai calci di rigore. L'amaro commento del CT di allora, di Roberto Donadoni. Mi dispiace che un calcio di rigore abbia causato un po' tutto questo alla fine. Di Lippi se ne parla da 2 anni a questa parte, non è che se ne parla durante l'Europeo, quindi ognuno ha il suo modo di porsi, ognuno ha il suo modo di atteggiarsi e di proporsi anche agli occhi del pubblico, della gente. Ognuno è libero di fare quello che ritiene più opportuno, non sono certo io che devo insegnare a nessuno i modi e i comportamenti. Io ho il mio modo, ognuno di noi ha il suo. Penso che in questi 2 anni sia stato fatto qualcosa di anche di positivo, e non certamente l'ultima partita o le ultime 2 o 3 partite possono cancellare quello che è stato fatto. Quindi poi dopo che si sia legati il giudizio, spesso non si è legato a quello che è il risultato finale, può essere altrettanto vero, ma credo che sia un tipo di valutazione che andrebbe fatta diversamente, ma non perché è toccato a me in questo modo specifico. I soldi, sapete, possono far comodo a tutti, no? Però non è mai stato un problema di denaro il mio, ma non mi interessa neanche stare a dirlo più di tanto, insomma, le cose sono andate così, quindi tutto il resto sono un po' chiacchiere. Un addio da gran signore, quello di Donadoni, un addio che segnò un doppio grave errore da parte della federazione e in particolare del presidente Abete, non solo perché l'Italia fece a meno di un bravo commissario tecnico come Roberto Donadoni, ma soprattutto perché commise l'errore fatale di riprendere alla sua guida uno che pure ha vinto il campionato del mondo, ma insomma che in quel momento non, come poi i fatti hanno dimostrato, non era certamente il CT ideale per il calcio italiano, e cioè parlo di Marcello Lippi. Voltiamo completamente pagina dopo questa lunga cavalcata che è partita dal 68 ed è arrivata al 2008. Adesso andiamo avanti e sentiamo un lungo frammento del discorso di insediamento di Cesare Prandelli nel 2010, quando fu nominato commissario tecnico e quando delineò la legge quadro del suo modo di intendere il ruolo di commissario tecnico. No, ricette non ce ne sono, se non la volontà veramente di iniziare questa nuova avventura, pensando di non trovare solo dei problemi, ma sicuramente anche delle cose importanti. E quindi dobbiamo partire da questo, dalla voglia di essere coinvolti in un progetto ed in un programma che deve coinvolgere tutti, tutte componenti. Le componenti, sappiamo, sono la federazione, la squadra, ma anche voi. Quindi vorrei veramente creare un clima di rispetto e di assoluta collaborazione. Ma io penso che nessuna persona al mondo possa riuscire in breve tempo a ricominciare a pensare in positivo in tutte le situazioni. Mi spiego. Dobbiamo lavorare molto sulla qualità umana, sul rapporto. È da lì che parte tutto. Dobbiamo veramente far gruppo. Quando prima ringraziavo lo staff della federazione che ieri mi hanno accolto come se fossi di casa da tanto tempo. È da lì che dobbiamo partire, perché tutte le risorse umane sono fondamentali. Partendo da lì possiamo trasmettere anche ai giocatori questo concetto, che chi arriverà in nazionale deve rendersi conto che rappresenta non se stesso ma una nazione. Quindi cercare veramente tutte le energie immaginabili possibili per far sì che magari in certe partite, avendo una squadra magari con, in teoria con pochi giocatori di grande qualità, possa sopperire a questo con un grandissimo attaccamento. Quindi tutti si devono riconoscere in questa squadra. Domenica prossima a quest'ora mancheranno ormai pochi minuti al debutto azzurro contro i campioni d'Europa e del mondo spagnoli, una rivincita attesa da 4 anni, con l'Italia imbattuta contro la Spagna nelle ultime edizioni, perché è giusto ricordare che anche l'Italia di Donadoni perse i rigori, ma non perse certamente la partita. Grazie a Pietro Lacorte in regia, a Giorgio De Luca e Franco Piantanida in redazione. Buon pomeriggio.